Ed eccoci alla nostra domenica di agosto. Questa domenica di agosto, come sappiamo tutti, credo quasi tutti, è una domenica speciale, l'abbiamo istituita dopo la morte di Don Giorgis per avere un momento che lo ricordasse. E avevamo deciso di scegliere la domenica più vicina al 6 agosto, che è la data della morte. Quest'anno cade oggi 4 agosto. Siamo al 9° anniversario, l'anno prossimo sarà il 10° e come abbiamo scritto nella lettera di invito, vorremmo magari in giornata vedere se salta fuori qualche idea per un altro anno, che essendo il 10° anniversario, insomma, vorremmo vedere se si può fare qualcosa di un po' particolare. Abbiamo cercato in questi 9 anni di ricordare Don Giorgis in modo attivo, non di semplicemente così sentimentale, quanto era buono, quanto era bello, eccetera, ma di proseguire il cammino un po' sulle sue orme per quanto potevamo, per quanto siamo stati capaci. Questo ultimo anno direi che è stato un anno che va dall'agosto dell'anno scorso all'agosto a tutto quest'anno che 2024, direi che è stato un anno particolarmente ricco di cose, insomma. Credo che, forse Luciana me lo conferma, se pensiamo a Don Giorgis, pensiamo che in qualche modo misteriosamente sia presente, posso essere abbastanza contento, no, ce lo possiamo immaginare con quel suo sorriso, gli occhi un po' sempre un pochino ironici, ma buoni così. E vabbè, abbiamo fatto un discreto lavoro, dai. Adesso, oggi abbiamo Duilio che anche lui risponde alla nostra sfida, eccetera, e ci parlerà del libro biblico come scuola di umanità sulle orme, in particolare di Paul Beauchamp e Christophe Theobald. Duilio, a te. Grazie. Ecco, voi cercate sempre di farmi diventare biblista, perché proponete questi temi, ma ahimè, io non sono un biblista e temo sempre il rischio di diventare tuttologi, no? Perché appunto oggi nel nostro contesto tutti si sentono autorizzati a parlare di qualunque cosa. Allora, siccome... Riuscite tutti a sentire? Sì. Siccome Don Franco Ardusso, che purtroppo già mancato molti anni fa, mio collega in teologia fondamentale di Torino, diceva che quando io leggo un autore, no, in cui mi riconosco pienamente, e dice meglio di quanto avrei potuto fare io le cose che voglio dire, perché devo mettermi lì a sforzarmi e a immaginare di fare qualcosa, no, di ulteriore. Ecco, stamattina io farò più o meno una roba di questo genere, nel senso che appunto io non sono biblista, ma ho imparato molto da due autori che ho messo appunto nel sottotitolo di questo intervento, e cioè Christophe Theobald e Paul Beauchamp, che invece hanno dedicato nel passato, nel caso di Paul Beauchamp perché è mancato nel 2001, continua a dedicare ancora oggi Christophe Theobald, che appunto è teologo francese vivente, hanno dedicato molto della loro ricerca proprio sul riferimento alla scrittura e sull'attualità della scrittura, che appunto è il fil rouge, no, che collega i diversi interventi di questo anno della tenda. E quindi appunto io seguirò le orme di questi due autori, ovviamente in maniera molto, molto essenziale, perché sono autori ricchi, complessi, articolati, che quindi richiederebbero molto tempo per essere approfonditi in maniera analitica, ma non è questo il nostro intento. Io me ne servo appunto per tentare di dire qualcosa su questo tema, no, dell'anno, che certamente è molto intrigante, molto stimolante. Faccio questo cappello prima di entrare nel merito, perché ci aiuta anche a capire il motivo per cui questi due autori, Theobald e Beauchamp, leggono la Bibbia in un certo modo. E il cappello è questo, cioè ormai da tempo si è affermata nel nostro contesto una cultura di tipo secolare che ha prodotto la fine di un cristianesimo, cioè ha prodotto la fine di quel cristianesimo che si poneva come punto di riferimento centrale nel contesto di una società cristiana. Ecco, questo tipo di cristianesimo è finito e non è necessariamente un male che sia finito questo tipo di cristianesimo, proprio perché non si tratta della fine del cristianesimo, si tratta della fine di un cristianesimo. Di un cristianesimo che appunto ha preso la figura della cristianità. E allora, se prendiamo atto che questo tipo di cristianesimo è finito, il compito è quello di trovare la forma adeguata per continuare a trasmettere e a realizzare l'esperienza cristiana nel nuovo contesto in cui ci troviamo. Proprio perché non è finito il cristianesimo, ma solo un tipo di cristianesimo, una possibile forma di cristianesimo. Ecco, proprio questo compito richiede di mettere al centro, comunque di porre attenzione al tema del rapporto tra Sacra Scrittura e cultura. Cultura intesa in senso umanistico, cioè cultura intesa come una maniera di abitare il mondo, ecco. Quindi che non riguarda soltanto come dire, i libri o le tradizioni, ecco, ma riguarda proprio quel senso che si respira, no, in un determinato contesto geografico, sociale, eccetera. Ecco, oggi dobbiamo in qualche modo ripartire da qui, se vogliamo ridare figura ad un cristianesimo che sappia parlare non all'uomo del Medioevo o all'uomo della modernità, dei lumi, diciamo così, ma all'uomo contemporaneo, qui e ora. E questo perché? Perché da una parte la Bibbia, letta, interpretata alla luce della grande tradizione ecclesiale, costituisce, potremmo dire, il canone, cioè la regola fondamentale per la realizzazione dell'esperienza cristiana in ogni epoca. Qualunque esperienza cristiana deve cercare nel libro biblico il suo criterio di ispirazione, il suo criterio di verifica, perché altrimenti non è più un'esperienza cristiana. E quindi la Bibbia da una parte è canone, è regola fondamentale dell'esperienza cristiana, ma dall'altra parte la Bibbia la possiamo anche considerare come codice delle culture, cioè un libro che contiene, che porta con sé un orizzonte di senso, un orizzonte di significato e di valore che è capace di illuminare e di interpretare quelle che sono le esperienze fondamentali dell'umano. Ecco, allora, il compito che oggi ci è richiesto per poter vivere questa nuova stagione dell'esperienza cristiana, il compito è quello di mettere in correlazione, di mettere in rapporto, da una parte, il riferimento alla Bibbia come canone, no, dell'esperienza cristiana, e dall'altra parte il riferimento alla Bibbia come codice dell'esperienza umana. Nella consapevolezza che l'esperienza cristiana non è un'altra cosa dell'esperienza umana. L'esperienza cristiana non sta sopra, sotto, accanto all'esperienza umana, ma è la stessa esperienza umana che prende forma nel contesto, appunto, di una scelta di fede verso Gesù Cristo, verso il Dio di Gesù Cristo, ma verso anche quelle che sono le fonti, appunto, normative, regolative di queste esperienze che troviamo nel libro biblico come raccolta di libri. Ecco, mettere insieme Bibbia canone dell'esperienza cristiana e Bibbia codice dell'esperienza umana. Questo è il compito che hanno preso molto sul serio i due autori di cui vorrei seguire le orme nella mia riflessione di questa mattina. Si tratta di due gesuiti, sia Theobald che Beauchamp appartengono appunto alla Compagnia di Gesù. Tutti e due sono francofoni, comunque legati alla cultura francese. Tutti e due hanno insegnato alla facoltà gesuitica di Parigi, il Centre Serve. Beauchamp, appunto, una generazione, diciamo così, precedente a quella di Theobald. Theobald, appunto, un autore ancora vivente e operante, come dicevo prima, e il fatto di aver insegnato insieme nella stessa facoltà ha prodotto anche un interessante confronto, no, e dialogo tra queste due voci. Ecco, quindi questa era l'introduzione che, a mio avviso, era necessaria appunto per capire, come dicevo, il tipo di approccio che questi autori seguono nella loro riflessione sulla scrittura. Allora, partiamo da Christoph Theobald. L'idea di fondo che anima la proposta teologica di Theobald è quella del cristianesimo come stile. Cristianesimo come stile, cioè il cristianesimo come modo di vivere che affonda le sue radici nel rapporto con Gesù Cristo. Un rapporto che non si può in nessun modo esaurire nell'adesione ad una dottrina o nella messa in pratica di una morale. Il cristianesimo è stile proprio perché riguarda una maniera di concepire l'esistenza, di dare forma all'esistenza nella sua integralità. Ed è in questo orizzonte, no, che Theobald inserisce la sua riflessione sulla Bibbia come libro, dice lui, che custodisce in sé, che mette a disposizione la matrice dello stile cristiano, cioè quelli che sono i contorni, i lineamenti, no? La figura fondamentale della maniera cristiana di vivere, appunto di abitare il mondo. Ora, Theobald parte da questa osservazione, cioè: nella nostra cultura occidentale il libro biblico progressivamente sempre di più si è staccato dalla tutela esclusiva della comunità cristiana. cioè ha cominciato sempre di più a circolare al di là di quelli che sono i confini della Chiesa o delle Chiese. E proprio per questo è diventato, si potrebbe dire, un classico tra gli altri. È diventato un classico, come potrebbe essere l'Iliade, l'Odissea. Cioè, un componimento letterario che viene considerato appunto come portatore di valori, di significati, che in qualche modo hanno conservato un'attualità, anche per l'oggi. Uno scritto, il classico è questo, no? È uno scritto del passato che continua a parlare, che continua a far sentire la sua voce in maniera significativa anche nell'oggi. Quindi la Bibbia, diventata classico tra gli altri, fa sì che la possibilità di accedere a questo libro si sia democratizzata, dice Teobald, anzitutto all'interno della comunità cristiana. Cioè il libro biblico, questo soprattutto con il movimento biblico della prima metà del Novecento, poi rilanciato a livello universale dal Concilio Vaticano II, in particolare dalla Costituzione dei Verbum, ecco, il libro biblico va nelle mani dei fedeli, i quali fedeli, al contrario di ciò che accadeva non moltissimo tempo fa, non hanno più bisogno di avere il permesso dell'autorità ecclesiastica per leggere il libro. Perché, come sappiamo, fino alle soglie del Vaticano II era di per sé così. Per leggere la Bibbia occorreva avere il permesso del parroco. E in certi contesti la Bibbia era addirittura messa all'indice. Ma messa all'indice, ovviamente, non per i contenuti, cioè, messa all'indice perché leggere la Bibbia era protestante, non era cattolico. Sono i cattolici, sono i protestanti che leggono la Bibbia. No. I cattolici leggono il catechismo. E quindi, insomma, era meglio prendere le debite misure in modo tale che questo non costituisse poi uno scivolo verso una forma di protestantizzazione. Ecco. Ora, grazie a Dio, nel senso letterale della parola, tutto questo fa parte del passato, o comunque dovrebbe fare parte del passato, e proprio per questo la Bibbia non solo circola nelle mani dei fedeli, ma è a disposizione anche di chi non appartiene alla Chiesa e che si mette in rapporto con la Bibbia in forme molto diverse. E questo qualcosa, è un fenomeno che effettivamente si verifica. Faccio solo qualche esempio. Della Bibbia se ne occupano gli storici delle religioni, che comparano la Bibbia con i testi sacri delle altre tradizioni. Della Bibbia si occupano anche i filosofi. Molti filosofi contemporanei commentano la scrittura nel loro lavoro di pensiero, perché la ritengono una fonte di riferimento altrettanto interessante rispetto alle opere di Platone, di Aristotele o di Kant. E ancora, in parecchi ambienti che definiamo, tra virgolette, laici perché non mi riferisco al laicato cristiano, ma appunto alla cultura laica, secolare forse sarebbe meglio dire, ecco, in parecchi ambienti laici o secolari, di fatto l'accostamento al libro biblico rimane l'unico aggancio accettato alla dimensione dell'esperienza religiosa. In questi ambienti il catechismo della Chiesa Cattolica non avrebbe nessun possibilità di farsi strada. La Bibbia sì, proprio perché appunto è percepito come un classico, non immediatamente come un libro di fede, ma come un classico, che quindi appunto merita attenzione, merita ascolto, merita rilettura, ripresa. Ecco, questa democratizzazione dell'accesso alla Bibbia può certamente creare un senso quasi di spossessamento, no? Da parte dei credenti, e in effetti a volte questo li spinge a reagire con un atteggiamento di rigidità, di chiusura. Dice: no, la Bibbia è nostra e ce la gestiamo noi, perché dobbiamo appunto metterla nelle mani dei non credenti, dei laici, dei filosofi? No, la Bibbia è cosa nostra, no? Giù le mani. Ecco. Quindi si possono creare, e di fatto a volte si creano, queste reazioni di chiusura, ma questo fenomeno è considerato invece da Theobald e da molti altri come una buona opportunità del nostro tempo. Cioè, la parola di Dio scritta circola tra cristiani e non cristiani, e se vogliamo, proprio in questo modo continua in una forma inedita, nuova, quella diffusione inarrestabile della parola di cui scrive Luca negli Atti degli Apostoli, dove più volte appunto Luca insiste sul fatto che la parola correva, si diffondeva tra i credenti ma anche tra i pagani. Ed è una diffusione che lascia delle tracce significative anche dove l'istituzione ecclesiastica non riuscirebbe più ad arrivare direttamente. E qui allora il libro biblico si trasforma appunto in uno strumento molto efficace per condividere, come dicevo prima, il codice di una maniera di abitare il mondo che è resa possibile da Gesù Cristo. È un codice che è capace di generare diversi modi di realizzare una vita buona, ispirata a quella di Gesù, senza confini prestabiliti di appartenenza. Perché appunto non c'è bisogno di nessuna tessera particolare per prendere in mano oggi il libro biblico. E qui allora emerge un aspetto centrale nella rilettura che Theobald fa dell'accostamento alla Bibbia. Cioè, lui dice: oggi non possiamo più dare per scontato che chi prende in mano la Bibbia lo consideri un libro ispirato dallo Spirito Santo. Non è da presupporre nessuna condivisione scontata su questo. Però, appunto, se non possiamo partire dal presupposto che quel libro sia ispirato, possiamo però arrivarci. Possiamo arrivarci nella misura in cui, leggendolo, noi percepiamo che quel libro è ispirante. È ispirante. Cioè, si tratta di un testo che è capace di, come dire, di promuovere, di spingere, di provocare al riconoscimento di una forma di senso, ad una forma di significato e di valore per l'esistenza, per vivere, che può essere appunto percepita come interessante, come arricchente, anche per l'uomo secolare. E Quindi nella misura in cui si fa esperienza di questo carattere ispirante delle scritture, lo vedremo poi ancora meglio più avanti, si può anche arrivare ad un certo momento a riconoscerlo come ispirato, cioè come frutto di una particolare azione dello spirito, che appunto plasma in qualche maniera la testimonianza di coloro che scrivono, che mettono per iscritto, che appunto redigono i libri della Sacra Scrittura. Però questo come punto d'arrivo, non come punto di partenza. E notiamo, per certi versi, questo non vale soltanto quando il libro biblico si diffonde in un contesto di tipo laico secolare, ma vale anche per all'interno della comunità cristiana. Cioè, oggi non dice più niente immediatamente il fatto che io mi metta, cioè faccia riferimento alla scrittura come appunto un libro ispirato, no? Che quindi in qualche maniera fa leva su un'autorità immediata di ciò che sta scritto. Lo dice la Bibbia e quindi, no, quindi niente, cioè oggi questo quindi per lo più non ha più efficacia. Non è che appunto io lo apprezzo solo perché lo dice la Bibbia, perché sta scritto. Io lo apprezzo se riesco a percepire questo carattere ispirante di ciò che è scritto. Faccio esperienza della forza di umanizzazione che la familiarità con quel libro può creare in me, può coinvolgermi. Ecco. E allora, in cosa consiste questa forza ispirante che accompagna il libro biblico? Theobald dice, noi giustamente chiamiamo il libro biblico scrittura sacra o scrittura santa. Theobald preferisce usare il termine le sante scritture piuttosto che le sacre scritture. Ma perché? Perché secondo lui ciò che rende effettivamente ispirante quel libro, soprattutto il Nuovo Testamento, ma non solo, è il fatto che quel libro è portatore della santità di Dio. È portatore della santità del Dio tre volte santo, che trova una sua concretizzazione particolare nella santità di Gesù stesso, nella santità di Gesù. Quindi quelle sono scritture sante perché in qualche maniera mediano la santità di Dio incarnata dalla santità di Gesù. E Theobald definisce la santità di Gesù come ospitalità. Gesù è il santo di Dio anzitutto perché è capace di una straordinaria ospitalità. Un'ospitalità che viene definita messianica ed escatologica. Mi spiego. Un'ospitalità messianica, e questo Theobald lo ricava dalla lettura dei numerosi incontri di cui sono fatti i racconti dei Vangeli canonici. No? L'ospitalità di Gesù è messianica perché la sua presenza è caratterizzata profondamente da una capacità di accoglienza, aperta, incondizionata. Un'accoglienza rivolta verso chiunque. Un'accoglienza che non riguarda soltanto la cerchia dei discepoli, ma abbraccia anche, dice Theobald, ogni tout venant, cioè ogni nuovo venuto, qualunque interlocutore occasionale. Quindi Gesù crea attorno a sé uno spazio libero, uno spazio di accoglienza, in cui chi lo incontra si sente ospitato. E proprio per questo si sente raggiunto, come dire, da una vicinanza benevola, buona, una vicinanza che lo sollecita, lo spinge a dare credito a Dio, e attraverso questo credito a Dio ridare fiducia anche alla vita intera. E così Teobald rilegge in particolare i diversi racconti di miracolo che sono appunto presenti nei Vangeli. Il miracolo è proprio essere accolti da questa ospitalità di Gesù e dentro questa sfera di ospitalità ritrovare un coraggio per la vita, no. Ritornare a dare fiducia alla vita anche a fronte di quel male, di quella sofferenza, di quel peccato che può in qualche modo generare sospetto nei confronti del fatto che la vita sia desiderabile, sia affidabile. Quindi un'ospitalità messianica. Ma proprio per questo, dice Teobald, l'ospitalità di Gesù è anche un'ospitalità escatologica. Cioè, attraverso la presenza di Gesù, la Signoria di Dio agisce pienamente. Grazie, sei arrivato. Benvenuto. Dicevo, attraverso la presenza di Gesù la Signoria di Dio agisce pienamente, ma è una signoria che non ha la forma di un potere di sottomissione, perché è una potenza di cura, di dedizione, di misericordia, una potenza così radicale che è capace anche di vincere quello che Paolo chiamerà l'ultimo nemico, e cioè la morte. E notiamo, Paolo parla della morte anche come il pungiglione del peccato, no? Per indicare che la morte non riguarda solo il termine della nostra vita, ma proprio in quanto minaccia incombente, finisce di avvelenare anche la nostra vita nel presente. Se noi appunto viviamo, come dire, nella continua paura di questo termine che tutti attende. Ecco, la vicinanza di Gesù permette di reinterpretare, di rileggere anche la stessa morte, vincendo appunto quel veleno di cui la morte è portatrice e che rischia appunto di avvelenare, di corrompere i rapporti con se stessi, con gli altri, con l'ambiente. Ecco. Questa santità ospitale di Gesù, dice Teobald, noi la ritroviamo in particolare nel Nuovo Testamento. I racconti che noi troviamo nei Vangeli sono racconti di questa ospitalità messianica e scatologica di Gesù, che attraverso quel testo continua a raggiungere i suoi lettori in ogni tempo. Certo, occorre lasciarsi in qualche modo coinvolgere dal gioco della lettura o dell'ascolto della parola. E qui concludo questo riferimento a Teobald. Cercando di restituire quello che per lui dovrebbe essere il metodo di un accostamento al libro biblico che appunto mette nelle condizioni di coglierlo come effettivamente ispirante, proprio perché portatore di questa santità messianica ed escatologica che è di Dio, ma è incarnata da Gesù. E questo metodo passa attraverso tre operazioni di fondo che Theobald richiama in questo modo: ricerca, coinvolgimento e trasformazione. Ecco, sono le tre soglie di accostamento alle scritture, al libro biblico, che chi legge è accompagnato ad attraversare, soglie appunto che sono da attraversare per diventare un lettore credente, laddove quel participio presente, credente, come adesso dirò, assume delle sfumature diverse a seconda delle soglie che sono attraversate dal lettore. Partiamo allora dalla prima soglia, la ricerca. E qui il presupposto è quello che dicevo prima, cioè il fatto che la Bibbia sia riconosciuta oggi dentro e fuori la Chiesa come un grande classico, un libro che ha qualcosa di unico da dire sul senso dell'umano. E quindi una prima soglia da oltrepassare è quella che assume la forma proprio anche della curiosità che è suscitata da un classico. Una curiosità che, se, come dire, seguita, no? Fa diventare capaci di riconoscere nelle scritture ebraico-cristiane un testo che, come dicevo prima, possiede una forza ispirante, cioè possiede un'energia di illuminazione, di rinnovamento, che coinvolge la vita dei suoi lettori. E quindi si tratta di ricercare nei libri biblici quella che appunto Theobald chiama un'école d'humanité, cioè una scuola di umanità. È una scuola dove si parla di che cosa? Si parla della relazione tra gli esseri umani, della figliolanza e della fratellanza, si parla dei rapporti con i beni della terra, della costituzione della società, si parla della religione, della sua possibile strumentalizzazione. E ancora in questa particolare scuola di umanità che è la Bibbia si affrontano anche i grandi temi della malattia, della morte, del male in tutte le sue forme, senza però mai lasciare l'ultima parola alla potenza del negativo. Perché questa scuola di umanità che è la Bibbia insegna, potremmo dire, a resistere al male, proprio perché alimenta, nutre quella fede fondamentale nella vita che può abilitare ad affrontare appunto le esperienze del male nelle sue tante forme. Quindi questa è una prima soglia che il lettore può attraversare ed è invitato ad attraversare: la ricerca nella Bibbia di una forma di senso che sia capace di dare significato e valore a tutte le esperienze del vivere, compresa l'esperienza del male e della morte. Ma poi c'è una seconda soglia da oltrepassare. È quella in cui il lettore si sente spinto, si sente in qualche modo incoraggiato a confrontare la propria storia personale con le vicende che trova raccontate nella scrittura. E in effetti la Bibbia, come sappiamo, immediatamente non si presenta come una raccolta di formule dottrinali o di principi filosofici e teologici. Immediatamente la Bibbia si presenta come una raccolta di storie. E dentro questa raccolta di storie la vicenda di Gesù sta al centro, è il centro. Attorno a questo centro, che è la vicenda di Gesù, ci sono le vicende di molti uomini e di molte donne. Uomini e donne che hanno coltivato l'attesa messianica del compimento del regno, oppure l'hanno dimenticata, come racconta l'Antico Testamento. Storie di attesa del compimento del regno e della sua rimozione. E poi, dall'altra parte, ci sono vicende di uomini e di donne che hanno riconosciuto e accolto Gesù di Nazareth proprio come colui che inaugura definitivamente il regno di Dio, fatto vicino. Oppure, anche in questo caso, storie di uomini e di donne che lo hanno rifiutato, che si sono chiuse alla sua ospitalità. E questo è ciò che racconta il Nuovo Testamento. E allora chi legge è appunto invitato a confrontarsi, no, con queste storie particolari, è aiutato a interpretare e a comprendere meglio quelle che sono le sue attese e le sue dimenticanze, quello che è la sua accoglienza oppure il suo rifiuto riguardo all'iniziativa di Dio. E così allora si creano le condizioni perché il lettore, attraverso l'accostamento con le pagine, possa fare un incontro coinvolgente con Gesù. Quel Gesù che progressivamente viene scoperto come il testimone, il realizzatore di uno stile di esistenza che vale la pena di condividere. Proprio nella prospettiva di un cammino di continua maturazione umana, fino a raggiungere la misura dell'umanità realizzata da Gesù, come scrive la lettera agli Efesini. E qui allora si incontra la possibilità di attraversare un'ultima soglia. E qual è l'ultima soglia? È quella che porta al lettore a misurarsi con il libro biblico nella sua totalità, nella sua globalità, come un racconto che si distende appunto tra la Genesi e l'Apocalisse, tra il principio e il compimento, tra l'inizio e la fine. Il lettore che prende coscienza di questo sente anche l'esigenza di cogliere, diciamo così, l'unità, no, che lega insieme il senso della vita di ciascuno con il senso della storia, della società, addirittura dell'universo, proprio perché appunto la struttura del libro biblico è una struttura che abbraccia l'intero, ripeto, da Genesi all'Apocalisse e dall'origine al compimento. E allora in questo modo si fa esperienza che le scritture, dice Theobald, aprono le porte di un mondo dove ciascuno può trovare il suo posto, perché questo mondo biblico viene sentito come più grande, cioè più ricco di significati e di valori rispetto a quello che il lettore abitualmente abita. E a mano, no, che si esplora questo cosmo che è la Bibbia, che è il libro biblico, si percepisce la capacità di questo mondo biblico di rinnovare, di rigenerare il nostro mondo. Ecco allora che qui il lettore fa un'esperienza di trasformazione e riconosce che questa trasformazione è resa possibile proprio dall'incontro con il Dio di Gesù Cristo. E allora a questo punto può succedere che il lettore diventi disponibile a compiere un passaggio determinante, cioè passi dall'interesse, no, dalla curiosità iniziale per la ricerca di una forma autentica di umanità, passi da questo alla disponibilità di essere introdotto, di essere inserito in una sequela esplicita di Gesù Cristo, dentro la comunità ecclesiale, dove incontra in particolare i gesti sacramentali, no? Che abilitano a testimoniare l'Evangelo a favore di tutti. E dice Theobald, è così che la Chiesa nasce sempre di nuovo, appunto come la comunità dei discepoli testimoni che continuamente si muovono tra l'appartenenza alla convivenza umana e l'appartenenza ecclesiale, per portare appunto avanti il compito della comunicazione della fede a chiunque si dimostri interessato, a chiunque si lasci coinvolgere da questa ospitalità che la santità di Gesù Cristo, veicolata dalle scritture sante, porta con sé. Ecco, per quanto riguarda Theobald mi fermo qui, molte cose potrei ancora dirvi, ma dobbiamo appunto stare nell'economia dei tempi di questa riflessione. Passerei allora al secondo autore. Ecco, come vedete il primo autore, Theobald, ci ha aiutato a capire il perché di un accostamento alla scrittura e l'arricchimento che questo accostamento ci offre, fino a poter propiziare una trasformazione di esistenza, no? Che passa appunto da un approccio di curiosità ad una disponibilità a lasciarsi coinvolgere nella sequela esplicita di Gesù Cristo. Come dicevo, non dando niente per scontato, cioè partendo da una ricerca di umanizzazione che può poi portare anche a quell'esito di maturazione di una fede cristiana vera e propria. Ecco, alla luce di questo allora possiamo metterci a confronto adesso con il contributo di Paul Beauchamp. Un autore che ha dedicato appunto molti decenni della sua vita proprio al lavoro di esegeta ed interprete delle scritture, il suo grande capolavoro è l'uno e l'altro, si intitola L'uno e l'altro testamento, un saggio diviso in due tomi. Beauchamp appunto non ama molto parlare di Antico e Nuovo Testamento, ma preferisce usare questa formula, diciamo, più generale, l'uno e l'altro testamento. Perché appunto non è che uno sia antico e l'altro è nuovo. Sono due modalità con cui il Dio appunto dell'esperienza ebraico-cristiana, si accosta all'uomo di ogni tempo. Ecco. Ora, qual è la convinzione di Paul Beauchamp? La convinzione è che la Bibbia, considerata appunto sempre nella sua unità, formata dall'Uno e dall'Altro Testamento, la Bibbia ha la capacità di dare da pensare, ancora oggi, ma perché prima ancora e più ancora ha la capacità di dare da vivere. Cioè dà da pensare perché dà da vivere, cioè mette a disposizione dei suoi lettori una forma del giusto senso dell'umano che si presenta affidabile, che si presenta appunto dotata di una pienezza. Ecco, io cercherò di far emergere gli aspetti essenziali, no, di questa forma biblica del senso di cui parla Beauchamp, a partire da tre esperienze umane fondamentali: la ricerca del bene, lo scandalo della violenza e l'atteggiamento della speranza. Si potrebbero appunto utilizzare molti altri modi di accostamento al pensiero di Beauchamp, ma io seguo questa pista, che mi sembra particolarmente significativa. Come diciamo introduzione, mi sembra importante sottolineare che secondo Beauchamp, per poter capire fino in fondo la Bibbia, occorre, dice lui, sortir du livre. Dove sortir, questo verbo sortir, può essere tradotto certamente con uscire, ma anche con trarre, perché prendere, sortir in francese ha questo doppio significato, uscire ma anche trarre, prendere. Ecco, allora si tratta di sortir du livre, cioè non si tratta di abbandonare il libro biblico, di lasciarselo alle spalle, si tratta piuttosto di riconoscere che il libro biblico, come dicevo già anche prima, chiede di non fermarsi mai a quella che è la semplice lettera del testo, di non fermarsi mai allo sta scritto. Il libro biblico spinge a raggiungere la realtà a cui il testo rimanda. E qual è la realtà? La realtà è quella del legame indissolubile tra Dio e l'essere umano. Quindi la lettura delle scritture è una lettura veramente profonda quando è capace di uscire fuori dal semplice star scritto per entrare in contatto con quella realtà a cui il libro rimanda, questo legame indissolubile tra Dio e l'essere umano. E leggere le scritture permette di comprendere questo legame tra Dio e l'uomo in una maniera nuova, soprattutto nella misura in cui lo si considera questo legame a partire dalla vicenda di Gesù Cristo. Ecco perché la lettura della Bibbia propone una comprensione originale, no, dell'essere umano, della sua verità che è radicata nel rapporto con Dio. Beauchamp contesta radicalmente la convinzione che la Bibbia non contenga un pensiero ma solo dei racconti, che è una appunto delle obiezioni, no, che si può rivolgere alla scrittura. Appunto, la scrittura non è un libro di filosofia, non contiene delle verità appunto astratte, concettuali, frutto di un ragionamento di tipo logico, e quindi proprio per questo sarebbe da considerare in realtà come un libro non così significativo. Ecco, Beauchamp contesta questo perché dice: la Bibbia è vero che non è scritta secondo un certo tipo di razionalità, che è quella appunto logica, concettuale, ma questo non vuol dire che la Bibbia non abbia in sé una sua razionalità. È una razionalità che si presenta appunto nella forma della narrazione, del racconto, della sapienza, della poesia, della lode. Questo, dice Beauchamp, non è il contrario del pensare, ma è un pensare altrimenti, cioè è un pensare in un altro modo, che non si riduce appunto al modo della ragione logica, astratta. Quindi Beauchamp insiste sul fatto che noi nella Bibbia troviamo un pensiero, cioè troviamo una riflessione sulla realtà, sul senso della realtà, in particolare della realtà del rapporto tra l'uomo con Dio, che ha questa forma appunto particolare della narrazione, del racconto, della sapienza. Ora, secondo Beauchamp, questo è un punto di forza della Bibbia oggi, perché di fatto nella nostra cultura postmoderna non si apprezza più tanto come dire, la prospettiva dell'argomentazione astratta, si apprezza di più la prospettiva di una narrazione concreta. Tanto è vero, se ci pensiamo, questo termine narrazione è un termine molto diffuso nella cultura di oggi, che però, ripeto, come osserva Beauchamp, non è il contrario del pensare, è un pensare altrimenti, è un pensare in un altro modo. E allora, i tre temi che dicevo prima sono tre temi che ci permettono di far emergere la fondatezza di questa convinzione di Beauchamp. Il primo tema che ricordavo prima è il punto di vista biblico sul bene e sulla giustizia. Nella Bibbia noi non troviamo una riflessione astratta appunto sul bene, sui valori, che abbia come obiettivo quello di formulare un sistema di principi dottrinali o morali immutabili. Se noi cercassimo questo nella Bibbia, rimarremmo inevitabilmente delusi. Piuttosto nella Bibbia noi troviamo una riflessione sul bene e sulla giustizia che è portata avanti facendo riferimento in maniera costante ad una storia particolare, concreta, cioè la storia del popolo ebraico e poi anche dell'intera umanità, al cui centro, come dicevo prima, c'è la storia singolare di Gesù Cristo. Quindi nella Bibbia si parla del bene facendo riferimento a questa storia. E giustamente Beauchamp fa notare che la scrittura ebraica, che per noi cristiani è il primo testamento, inizia con una lunga serie di racconti che parte da Genesi fino alla metà del libro dell'Esodo, poi con il Sinai arriva una raccolta molto imponente di leggi, che troviamo nella seconda parte di Esodo e poi ancora più significativamente nel Levitico, nel libro dei Numeri e nel libro del Deuteronomio. E dopo di questo troviamo ancora altri racconti fino ad arrivare al libro dei profeti, ai libri dei profeti, quei libri in cui ci si riferisce all'osservanza oppure alla trasgressione della legge. E si annuncia anche un'era di perdono. Ecco, questa era di perdono, secondo gli autori del Nuovo Testamento, è stata inaugurata pienamente da Gesù, senza che però resti semplicemente fuori campo il rimando alla legge. Negli scritti del Nuovo Testamento torna la questione del rapporto tra Vangelo e legge, ma appunto in un modo, in un accostamento diverso rispetto a quello del Primo Testamento. Ecco, Beauchamp riassume il senso di questa struttura della Bibbia, che caratterizza appunto l'uno e l'altro testamento, in una formula che mi sembra molto efficace, no? E che restituisce bene il punto di vista biblico sulla ricerca del bene, appunto. Questa formula è questa: prima della legge il dono, poi la legge, infine dopo la legge la trasgressione e il perdono. Quindi prima della legge il dono, poi la legge e infine la trasgressione e il perdono. E Beauchamp interpreta così questa formula, leggo dalle sue parole: nel meccanismo narrativo della Bibbia non c'è nulla che cominci dalla legge. Il racconto viene prima della legge. E lo dicevo poco fa, la prima grande parte del libro biblico contiene delle storie. La storia, in particolare, della liberazione del popolo dall'Egitto e poi appunto dell'ingresso nella terra promessa. Quindi, il racconto viene prima della legge. Questo perché, dice Beauchamp, il dono, la grazia, la benevolenza, precede la legge. E la legge segue il dono. Mentre il perdono, cioè il più che dono, sappiamo che perdono significa appunto un iperdono, un più che dono, viene a perfezionare il dono lasciato incompiuto dalla legge. Puoi ripetere questa frase d'effetto? Prima sì. Della legge? Prima della legge il dono. Poi la legge. La legge. Infine, dopo la legge, la trasgressione sì. E il perdono. Ora, da questa prospettiva emergono delle conseguenze interessanti proprio per quanto riguarda la possibilità data ad ogni essere umano di trovare, di riconoscere, di accogliere il bene, cioè ciò che è in grado di orientare, di sostenere il cammino di una vita buona, come per gli altri. Anzitutto emerge che il bene, prima di essere prescritto, ha bisogno di essere testimoniato. Il racconto, appunto, ha il compito di mettere di fronte ad una storia, ad una vicenda, in cui il bene si dimostra possibile proprio perché prima è donato liberamente, gratuitamente, da un altro, cioè da Dio stesso, che si presenta appunto come l'origine di ogni dono perfetto, come scrive Giacomo nella sua lettera. Non solo, il racconto testimonia che il bene, proprio perché è possibile in quanto prima è donato, è anche essenzialmente libero. L'agire buono non può mai avere la forma della costrizione. È sempre caratterizzato dall'accoglienza consapevole e dalla responsabilità. Altrimenti non si tratta più del bene. Dove c'è costrizione non c'è bene. In questa prospettiva allora la legge, cioè la prescrizione del bene, nella prospettiva biblica non si pone affatto in alternativa alla libertà e alla realizzazione autentica della libertà. Piuttosto la legge si presenta come Torah. Torah è un termine ebraico che certo possiamo tradurre legge, ma letteralmente significa istruzione per il cammino. La legge è in realtà l'istruzione per il cammino. Un'istruzione che non si sostituisce alla coscienza libera, ma casomai orienta la coscienza, perché sia in grado di rimanere in sintonia con l'intenzione del donatore, cioè l'intenzione di Dio. E proprio questo orizzonte di libertà spiega anche l'eventualità della trasgressione. La legge è soggetta alla trasgressione perché non è costrittiva, perché si appella alla coscienza. La trasgressione però, come dimostra l'evento pasquale, non viene superata attraverso una sottrazione del dono. È interessante che appunto nella formula che citavo prima, Beauchamp non dice dopo la legge la trasgressione e quindi la condanna. No, dopo la legge la trasgressione e quindi il superdono. Paolo giustamente dirà da questo punto di vista, dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Quindi, appunto, la trasgressione viene superata da questa elargizione ancora più abbondante del bene. E questo è ciò che emerge dal confronto con lo scandalo della violenza e del male, che è il secondo punto, il secondo aspetto. Beauchamp a questo proposito nota che la violenza è una costante nella totalità dei due testamenti. Nel libro biblico c'è violenza. Nel primo testamento ci sono le violenze che Dio condanna, come ad esempio il fratricidio di Caino, o il crimine commesso da Davide nei confronti di Uria. Ma ci sono anche le violenze compiute per obbedire a Dio, come lo sterminio legato alle guerre di conquista nella terra di Canaan, il cosiddetto Herem, lo sterminio. Anche l'Israele attuale non si è dimenticato dello sterminio. Ora, questa ambiguità, cioè ci sono violenze che Dio condanna, ma ci sono anche violenze che Dio addirittura chiede, questa ambiguità sembra superata nel Nuovo Testamento. Perché qui è lo stesso Messia, cioè l'inviato definitivo di Dio, Gesù di Nazareth, a sottoporsi alla violenza e a prendere su di sé il rifiuto, senza rispondere al male con il male. E a questo proposito Beauchamp commenta così: la storia della nostra Bibbia va dalle violenze commesse ai tempi di Giosuè e dei giudici fino alla violenza estrema subita dal Messia di Israele. Dalla violenza inflitta a quella subita, si tratta di un capovolgimento del quale ciò che soprattutto ci resta impresso è il passaggio da un estremo all'altro. Ed è proprio questa la costante, dice Beauchamp, l'eccesso di ostilità, di violenza, trova risposta adeguata solo nell'eccesso d'amore. L'eccesso dell'ostilità trova la sua risposta nell'eccesso d'amore. E qui certamente entra in gioco il rimando alla croce di Gesù Cristo, perché la croce di Gesù deve essere interpretata appunto come quell'eccesso d'amore che è in grado di superare l'eccesso della trasgressione e quindi della violenza. E è proprio alla luce della Pasqua, no, che si capisce perché Gesù, dopo aver detto di non essere venuto per abolire la legge, Gesù intende stabilire un'altra giustizia, una giustizia di superamento. In Matteo capitolo 5 non a caso si parla di una giustizia superiore a quella degli scribi e dei farisei. E anzi, è interessante notare che nel capitolo 30 del libro del Deuteronomio si dice che la legge, questa istruzione per il cammino, come accennavo prima, traccia una linea divisoria, una linea di demarcazione. La vita per coloro che la osservano, la morte per i trasgressori. Questo appunto nel Primo Testamento. Ora dice Beauchamp, Gesù in realtà non elimina questa linea di demarcazione, in cui da una parte c'è la vita, da una parte c'è la morte. Gesù mantiene questa linea di demarcazione ma in modo diverso. Cioè adesso l'alternativa sta tra lo scendere al di sotto delle esigenze che la legge indica oppure il salire più in alto rispetto a queste esigenze. Appunto una giustizia più grande di quella degli scribi e dei farisei. E Beauchamp sottolinea che la decisione di scendere al di sotto delle esigenze della legge ha un limite massimo che è quello dell'autodistruzione o della distruzione dell'altro. Mentre la decisione di salire più in alto, cioè di seguire questa giustizia più grande, non ha alcun limite perché va verso la vita. Ecco perché nella prospettiva di Gesù la morte non è più concepita come la punizione del trasgressore, come invece avviene nel Primo Testamento, ma la morte viene presentata come l'esito della violenza che il trasgressore ha commesso. Cioè non è una punizione che venga dal di fuori, è un'autopunizione che il trasgressore si infligge, proprio nella misura di aver scelto la violenza anziché il bene. E dall'altra parte, la giustizia più grande non ha come esito soltanto la ricompensa della fedeltà alla legge, ma è la realizzazione compiuta dell'amore. La giustizia più grande è la giustizia di Agape, è la giustizia della dedizione, che appunto è una forma di giustizia, quella di Agape, appunto, della carità, no? È una forma di giustizia, ma che è tutta nell'ordine del dono o del superdono. E in questo modo Gesù, soprattutto nel discorso della montagna, vuole provocare i suoi interlocutori mettendo in evidenza che c'è la pubblicità. Eravamo in un silenzio contemplativo. Dicevo, a me è successo una volta in confessionale, quindi da quel momento in poi non giudico più nessuno. Dicevo, Gesù nel discorso della montagna mette di fronte ai suoi interlocutori l'alternativa tra due scelte, no? Cioè da una parte la scelta di realizzare il male, dove appunto l'esito è quello di andare incontro ad una perdizione di sé sempre maggiore, e dall'altra parte invece l'andare più lontano nel cammino della dedizione, nel cammino dell'agape, con diciamo l'esito di non sapere fino a quale eccesso di dono si sarà portati a realizzare. E questa è la scelta fatta da Gesù, no? Che appunto non ha messo limiti al suo eccesso di dono, e proprio per questo è andato incontro alla morte di croce, come dice Paolo, ma nello stesso tempo al termine di quella strada ha incontrato l'esito della vita in abbondanza attraverso la sua resurrezione da morte. E qui allora si affaccia l'ultimo aspetto, che è la questione della speranza. Quindi il bene, la violenza, la speranza. E secondo appunto il nostro autore, quando si parla della speranza emerge in maniera ancora più netta come la lettura della Bibbia possa essere considerata una scuola di umanità, che può entrare in sintonia anche con quella che è la sensibilità, l'attesa dell'uomo postmoderno, no? Immerso nella cultura secolare. Nel senso che nella nostra epoca una visione della speranza che si limitasse a ripetere lo schema della beatitudine, dell'anima separata dal corpo, sarebbe una prospettiva che avrebbe una presa molto scarsa. anche se questo schema continua a sopravvivere nell'immaginario di molti cristiani e anche di molti non cristiani. In realtà però questo schema, no, della speranza come beatitudine dell'anima separata dal corpo non è in grado di generare nessuna aspettativa davvero convincente, anzi proprio spesso diventa una ragione di rifiuto, di ostacolo nei confronti dell'adesione alla prospettiva cristiana. Ma anche in questo caso, dice Beauchamp, la scrittura ragiona altrimenti, in maniera diversa, cioè con categorie che, come dire, sono alternative rispetto a quelle, come dire, utilizzate in maniera più convenzionale dalla predicazione o anche dalla dottrina cristiana. Cioè Beauchamp sottolinea che il libro biblico, quando parla della speranza, la mette in collegamento con i due estremi in cui si viene a collocare quella che è la storia personale e collettiva. E i due estremi sono la nascita e la morte, che dal punto di vista di Dio rimandano alla realtà della creazione e alla risurrezione. Ecco, anzitutto, quindi occorre considerare il legame che ha la speranza con quell'esperienza che tocca l'uomo alla radice, cioè l'esperienza del generare, del nascere. Dare la vita, mettere al mondo un nuovo essere umano, è l'atto di speranza più fondamentale che ci sia. Ecco perché una società che patisce l'inverno demografico è anche una società che in profondità è disperata. È disperata, cioè non coltiva, non è nelle condizioni di coltivare un atteggiamento di speranza. Nello stesso tempo nascere significa iniziare a sperare. All'inizio addirittura in una forma che non è consapevole, ma, dice Beauchamp, l'urlo del neonato è in realtà un modo di attestare la fame di speranza del neonato, di superare il trauma della nascita attraverso appunto la possibilità di avere una speranza. Dice Beauchamp, la speranza, questo è bellissimo, la speranza è come una fede anteriore alla fede, anteriore in quanto va al di là di ogni religione particolare e perfino di ogni riferimento a Dio, giacché è semplicemente un prerequisito del vivere. La speranza è un prerequisito del vivere. Se appunto il neonato, nella forma dell'urlo, non potesse inconsapevolmente porre così un atto di speranza, sarebbe destinato a deperire e quindi a soccombere. Dice Beauchamp, la bellezza della speranza deriva dal fatto che non è solo uno stato d'animo, anzi molte volte non lo è per niente. Essa non conosce affatto se stessa, si vede nelle azioni e si esprime nella scelta pratica tra vivere e non vivere, generare o non generare. E un altro autore ha fatto notare che in tutti i Vangeli non c'è un discorso, non c'è un detto di Gesù in cui compaia la parola el, greca elpis, cioè speranza. Eppure questo non significa certamente che Gesù non fosse un uomo di speranza, ma appunto si è uomini di speranza non quando si usa più spesso la parola speranza, ma quando la si mette in atto concretamente, in gesti che generano a propria volta speranza per sé e per gli altri. concludo la citazione di Beauchamp, qui la Bibbia, qui, cioè questa esperienza della speranza, la Bibbia ci raggiunge ad un livello più profondo di quello di un'opzione programmata dai genitori eventuali e dalla società. È un luogo in cui l'essere umano, senza saperlo, si trova in relazione con il suo creatore. Un luogo in cui deve decidere se donare la vita sia donare un bene. Ecco, mi fermo ancora un attimo su questa citazione. Beauchamp fa riferimento a questo atto di procreare che già a partire dall'etimologia della parola è di una profondità teologica abissale, perché procreare significa creare al posto di, o se vogliamo nel posto di chi? Nel posto di Dio. Creare nel posto di Dio. E questo stabilisce appunto un legame tra l'iniziativa umana e l'iniziativa divina, come d'altra parte suggerisce anche il nome di Padre dato a Dio. Il nome di Padre evoca subito una prospettiva di generatività. E quando nella lettera agli Efesini si dice che da Lui, cioè da Dio, ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, Efesini 3, si tende appunto a indicare che la capacità di far essere una nuova vita, appunto procreare, è ciò che rende l'uomo e la donna immagine di Dio. L'uomo e la donna sono immagine di Dio radicalmente proprio per questa potenzialità di creare nel posto di Dio. E questo è anche il motivo per cui, secondo il Decalogo, l'onore reso al padre e una madre è la manifestazione dell'onore reso a Dio, anche per chi non sapesse nominare religiosamente questo onore. E d'altra parte è interessante notare come il verbo ebraico che appunto si usa nel comandamento, che noi traduciamo onore il padre e la madre, si potrebbe tradurre anche così: nutri il padre e la madre. È interessante il compito primario del padre e della madre nei confronti del figlio, della figlia messa al mondo, è quello di nutrirlo. Senza quel nutrimento, che non è solo nutrimento di cibo, ma è anche prima di tutto nutrimento di accudimento, di affetto, no? di tenerezza, quella nuova vita si spegnerebbe in fretta. Ora, quando i tuoi genitori si ritrovano in quella stagione in cui non sono più in grado di nutrirsi da soli, allora quello è il momento di nutrire tuo padre e tua madre, cioè di essere tu a ricambiare ciò che si hanno fatto per te all'inizio della tua vita. Interessante. E questo appunto è la dimensione propriamente religiosa, no? Che è contenuta in quel comandamento di onorare, cioè di nutrire il padre e la madre. Un padre e una madre, d'altra parte, vado alla conclusione di questo riferimento a Beauchamp, un padre e una madre, quando generano un figlio o una figlia, gli rivolgono una promessa di vita buona che da se stessi non sono in grado di mantenere. Cioè un padre e una madre promettono sempre radicalmente molto di più di quanto sono in grado di mantenere da se stessi. Questo però non rende la loro promessa una bugia, una menzogna. Quella promessa è necessaria, perché altrimenti il figlio o la figlia messa al mondo non potrebbero mai percepire il carattere desiderabile di essere posti nella vita. E tuttavia il fatto che poi quella promessa non possa essere in realtà mantenuta dai soli genitori è l'indice che quella loro promessa li fa testimoni di un dono che li supera, di un dono che li eccede, di un dono che è addirittura trascendente, perché può essere mantenuto e messo a disposizione in realtà solo da Dio, che è la sorgente della vita. E anche in questo senso i genitori, no, come educatori, diventano testimoni della cura di Dio. E questo ha a che fare ovviamente con la speranza, no? Ha a che fare con l'origine della promessa che sta alla base dell'esistenza, ma ha a che fare anche naturalmente con il compimento dell'esistenza stessa. Ecco qui l'altro estremo, no? Che è quello della morte. E qui Beauchamp appunto fa riferimento alla Pasqua di Gesù, dove l'oggetto della speranza, ancora una volta si sottolinea, non è la beatitudine dell'anima separata dal corpo, l'oggetto della speranza è la resurrezione della carne, o meglio la resurrezione dei corpi. E anche qui do la parola a Beauchamp quando scrive: il corpo resuscitato è come un trait d'union, un ponte tra questo e l'altro mondo. Anche se a ciò che molti tra i pagani ammettevano, ossia l'immortalità dell'anima, aggiungessimo la promessa più biblica di una felicità assoluta accordata a quest'anima immortale, saremmo ancora ben lontani dalla speranza della risurrezione. Chi dice corpo resuscitato dice mondo nuovo, non sparizione o dissoluzione, ma assunzione di questo mondo e di questo corpo. Ecco perché la speranza che è aperta dall'evento di Gesù Cristo viene interpretata già nel Nuovo Testamento come l'attesa di una nuova creazione. Non il superamento della creazione o l'annichilimento della creazione, ma una nuova creazione che non ammette nessun dualismo, nessuna spaccatura tra storia e eternità, tra materiale e spirituale. Ecco perché la speranza teologale, cioè la speranza di cui la Bibbia parla, non è compatibile per un verso con un disprezzo del mondo in vista di una presunta beatitudine celeste. Non è questa la speranza cristiana, non è disprezzare il mondo di quaggiù in vista dell'altro mondo. Così come la speranza biblica non ha a che fare neanche con una chiusura nell'aldiquà, che punta esclusivamente a quel futuro che l'uomo è capace di progettare da sé. E quindi, per un verso, sperare, secondo la Bibbia, non può essere mai un pretesto per rimanere inattivi, passivi, quindi aspettando appunto la realizzazione di una salvezza che è proiettata solo al di là della storia, ma per altro verso sperare, secondo la Bibbia, non significa neppure cadere nell'illusione di ritenersi padroni della totalità della storia, sia personale che collettiva. In realtà Beauchamp nota che la scrittura spezza questa illusione nel momento in cui colloca l'attuarsi del compimento della storia dopo un tempo, due tempi e la metà d'un tempo. Questa formula un po' enigmatica che troviamo nel Primo Testamento, nel libro di Daniele, al capitolo 12, e poi ritroviamo nell'Apocalisse, sempre al capitolo 12. Un tempo, due tempi e la metà d'un tempo. Che cosa significa questa formula? Significa che la salvezza che Dio opera si viene a posare sempre su una interruzione, cioè su una frattura di quel tempo di cui gli uomini riescono a disporre, nel bene o nel male. Un tempo, due tempi e la metà di un tempo. Appunto, c'è un'interruzione, no? C'è una frattura. E quindi sperare secondo la Bibbia comporta anche, forse soprattutto, imparare ad avvertire, a riconoscere il formarsi di questa frattura sotto i nostri piedi, proprio per evitare di cadere in balia del delirio di onnipotenza, no? E conseguentemente poi essere vittima di una frustrazione disincarnata, perché appunto ciascuno di noi alla fine fa esperienza che non è capace appunto di portare a compimento solo da sé la propria esistenza, l'esistenza del mondo. C'è questa metà d'un tempo che ci richiama alla nostra finitezza, ma nello stesso tempo ci rimanda anche a chi è in grado di aggiungere quella metà che manca, e cioè Dio, Dio stesso nella sua iniziativa di salvezza. E in questo appunto siamo chiamati a sperare. E allora, per tirare qualche conclusione, per fare un po' di sintesi, mi servo di una pagina biblica che prendo dagli Atti degli Apostoli, cioè l'incontro tra il diacono Filippo e il funzionario etiope, che troviamo nel capitolo 8 del libro di Atti, i versetti dal 26 al 40. È un episodio piuttosto noto, richiamo appunto velocemente il contesto. Il protagonista di questo episodio è Filippo, il diacono Filippo, mandato dal Signore sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Purtroppo contesti geografici molto drammatici oggi. Ecco, su questa strada Filippo si imbatte in un amministratore al servizio della regina di Etiopia, un eunuco, il quale sta rientrando al suo paese dopo aver partecipato al culto nel Tempio. E questo ci fa capire che doveva trattarsi di un pagano simpatizzante della fede ebraica, che quindi torna da un pellegrinaggio che aveva fatto a Gerusalemme, e dice Luca, seduto sul suo carro, legge il rotolo del profeta Isaia, in particolare il capitolo 53, che contiene il quarto canto del servo sofferente, no? E Filippo raggiunge questo funzionario che viaggia appunto sul suo carro, accetta l'invito che questo funzionario gli fa di sedersi sul carro con lui, e partendo da quel riferimento al capitolo 53 del libro di Isaia, annuncia a questo funzionario etiope Gesù, il suo Evangelion, no? La sua buona notizia. E ad un certo punto quell'uomo chiede di essere battezzato, quindi i due si fermano accanto ad un corso d'acqua e l'eunuco riceve il battesimo. E poi prosegue, dice Luca, pieno di gioia il suo cammino, mentre Filippo è rapito dallo spirito del Signore per continuare a predicare il Vangelo nelle altre città. Perché faccio riferimento a questa pagina di Atti? Perché a mio avviso si può trovare qui un modello, direi di stile, di una comunità cristiana che si ponga davvero a servizio della parola di Dio, dell'annuncio della parola di Dio. E allora cerco di far emergere alcuni aspetti che mi sembra appunto vadano in questa direzione. Innanzitutto l'incontro tra il diacono Filippo e il funzionario etiope è un incontro che avviene per strada. Precisamente avviene sulla strada che congiunge Gerusalemme a Gaza, no? Una città situata al confine egiziano. E quindi si tratta, diremmo oggi, di un crocevia, cioè di un posto in cui si intersecano, si incrociano appunto direzioni diverse e dove proprio per questo bisogna scegliere da che parte andare. In un crocevia c'è sempre un po' il dubbio su quale sia la via da prendere per non sbagliare strada. Ecco, allora, il crocevia mi richiama un posto di passaggio, di discernimento e di decisione. E appunto per questo si può usare, secondo me, come un'immagine. E lo facciamo quando, ad esempio, diciamo, trovarsi a un crocevia, no? Trovarsi ad un bivio, proprio per indicare, no, dicevo, quando noi diciamo ci troviamo a un crocevia, ci troviamo a un bivio, cioè quei momenti dell'esistenza in cui c'è bisogno di compiere una scelta di vita, una scelta di vita che chiede un cambiamento impegnativo, no? Magari addirittura una svolta radicale. Ecco, quindi il crocevia è un luogo, no, di una storia, di una vicenda personale, in cui può accadere che ci si ritrovi con la Bibbia fra le mani, no, per cercare in quel libro un orientamento, un'indicazione di senso, un'ispirazione, come direbbe Christoph Theobald. E può accadere certamente a chi è cristiano, ma anche per mia esperienza personale, più sovente di quanto possiamo immaginare, può accadere anche a chi non appartiene alla Chiesa, a chi cristiano non è, o non lo è più, o perlomeno abita, diremmo oggi, sulla soglia, no, di un'appartenenza esplicita al cristianesimo. Il comando che Filippo riceve dal Signore all'inizio del racconto ci ricorda che c'è un compito essenziale che è affidato ai discepoli del Signore, ed è il compito appunto di farsi trovare in questi crocevia, no? Cioè di cercare i modi, i tempi per affiancare chi attraversa qualche momento particolarmente cruciale della propria vita e almeno intuisce che nelle pagine della scrittura può essere contenuto per lui un tesoro nascosto, una perla preziosa, no? Per richiamare immagini che Gesù stesso ha usato. Certo, si tratta di quello che mi piace chiamare un luogo non comune, cioè non è un luogo comune il crocevia, è un luogo non comune, nel senso che in questi momenti di passaggio e di decisione non si arriva tutti insieme e soprattutto non si arriva tutti allo stesso modo. E ancora di più sono molto differenti le modalità con cui eventualmente in questi momenti si può prendere in mano, ci cioè si può accostare al libro biblico. Ecco perché non è scontato, lo dico proprio perché non ci si arriva tutti insieme in questi momenti particolari, occorre, come dire, abbandonare un po' quella logica della truppa o dell'intruppamento che spesso è stato seguito, forse continua a essere ancora seguito oggi, da parte della Chiesa. In questi crocevia, appunto, ci si deve far trovare rispettando quello che è il ritmo, il tempo, la dinamica di crescita di ciascuno. E proprio per questo allora ci si può poi rivolgere all'altro con quella domanda che Filippo fa al funzionario: capisci quello che stai leggendo? Cioè è vero che nella nostra epoca, come abbiamo detto riferendo alla posizione di Theobald, è vero che si verifica oggi un accesso democratico, no, alla Bibbia, ma non è così ovvio che questo accesso alla Bibbia, no, questa lettura, questo accostarsi al libro biblico, sia sempre necessariamente accompagnato da una comprensione autentica di ciò che si trova o di ciò che si immagina di trovare nella Bibbia. Ecco perché allora rimane una responsabilità dei discepoli, della comunità ecclesiale, di stimolare, no, chiunque si accosti al libro biblico, specialmente se è un lettore più o meno occasionale, ecco, spingere ad interrogarsi sulla qualità della propria lettura, della propria interpretazione. Capisci ciò che leggi? Questa è una domanda fondamentale, perché altrimenti invece di fare esegesi, cioè di portar fuori dal testo quello che è il suo significato rivolto al lettore, si rischia di fare eisegesi, cioè di portare dentro al testo qualcosa che abbiamo noi in testa, ma che non c'è nel testo. E quindi questa capacità, no, di mettersi a disposizione per aiutare in una dinamica di comprensione di ciò che si legge nella scrittura, ecco, questo è un compito che dovrebbe essere coltivato dalla comunità ecclesiale. Una seconda osservazione, la comprensione vitale delle scritture, quindi non una comprensione semplicemente a tavolino, no, accademica, richiede, come appunto stavo dicendo, il confronto con i testimoni, proprio per evitare di cadere nella deriva di un puro arbitrio, no, soggettivo. La Bibbia, come abbiamo detto, può essere davvero una formidabile scuola di umanità, ma come nota Beauchamp, il bene di cui la Bibbia ci racconta richiede di uscire dal libro, no? Di sortir du livre, perché quel bene, per venire autenticamente accolto, riconosciuto, ha bisogno non solo di essere descritto, di essere prescritto, ma ha bisogno prima ancora di essere testimoniato. E anche questo fa parte della responsabilità dei discepoli, cioè dare prova, almeno cercare di dare prova, di essere testimoni credibili, di essere testimoni coinvolgenti di quella realtà a cui il libro biblico rimanda, cioè, come dicevamo, la realtà di Gesù Cristo e del legame, della relazione con Dio che Cristo rende possibile. Altrimenti il rischio è quello di ridurre il libro biblico o a un documento archeologico, no, che ricostruisce così un passato che ci è semplicemente alle spalle, oppure l'altro rischio è quello di trasformare la Bibbia in una specie di repertorio di immagini, di simboli, a partire da cui ciascuno poi costruisce a piacimento la sua narrazione. Ecco. Questo è un rischio perché, appunto, come dicevo, il pericolo è quello di non lasciarsi realmente interpellare da quella parola che viene rivolta a noi lettori della Bibbia quando ci accostiamo con disponibilità, no, ad essa. E quindi, anziché entrare in dialogo con la parola, continuiamo a rimanere nel nostro monologo, più o meno autoreferenziale, più o meno interiore. Quindi le scritture certamente non sono un possesso esclusivo della comunità ecclesiale, e tuttavia, se non c'è in qualche modo una relazione con la testimonianza di quelle comunità da cui le scritture sono emerse, allora le scritture in definitiva diventano mute, cioè si svuotano di quella loro carica di ispirazione per la vita che invece di per sé dovrebbero possedere, proprio perché non si diventa capaci di cogliere quella parola che è mediata dallo scritto, dallo sta scritto. Ecco perché allora il servizio alla parola di Dio richiede alla comunità ecclesiale, io direi, di attrezzarsi, no? Per attuare quella che mi piace chiamare una pastorale dialogica. Cioè una pastorale che nei diversi crocevia, no, delle storie personali sia capace di far incontrare in maniera autentica, in maniera convincente, la parola di Dio con le molte parole che noi sappiamo o non sappiamo più pronunciare a proposito di noi stessi, del nostro mondo, del senso della nostra esistenza, della nostra vita. E ultima considerazione, il racconto di Atti al versetto 39 ci dice che quando furono usciti dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più e proseguì pieno di gioia il suo cammino. Ecco, mi sembra di ritrovare qui l'intuizione di Teobald, il quale parla di uno stile di chiesa che è disposta a vivere una duplice dinamica, cioè la dinamica del nascere e del ritrarsi. Dice Teobano, una chiesa, un'église naissant e disparaissant, è una chiesa che nasce e che non tanto sparisce, ma appunto si ritrae. No? Questo in che senso? Nel senso che l'annuncio della parola chiede il coraggio, la capacità, come dicevamo, di affiancarsi, di accompagnare, anche di istruire quando questo è richiesto, ma nello stesso tempo l'annuncio della parola chiede anche l'attenzione a non imporsi in modo invadente, l'attenzione a non spegnere l'autonomia e anche la creatività del nostro interlocutore. Ecco perché una pastorale dialogica è l'esatto contrario di quella che potremmo chiamare una pastorale del controllo totale. No. C'è una pastorale che si pone come obiettivo la pianificazione, no, della vita e delle scelte dell'altro. Una pastorale del controllo totale di fatto è quella che come Chiesa Cattolica abbiamo cercato in ogni modo di portare avanti finché ne abbiamo avuto la possibilità. Poi, quando il processo di secolarizzazione, come dire, ha cambiato radicalmente il volto delle nostre società, no, della nostra cultura, è chiaro che abbiamo dovuto in qualche modo recedere. Ecco. Lo abbiamo fatto molto a malavoglia e, come dire, ancora oggi mi sembra che si colgano parecchie nostalgie, no, di un ritorno ad una pastorale del controllo totale, specialmente tra i preti più giovani, che amerebbero molto di nuovo poter far valere la loro autoritas, ecco, nei confronti appunto della comunità o comunque delle persone. Qui invece si tratta di avere fiducia nel potere reale di trasformazione del cuore che una seria lettura del libro biblico porta con sé. E questa fiducia nel potere di trasformazione della Bibbia dovrebbe spingere noi discepoli del Signore a realizzare una ospitalità senza confini. Un'ospitalità che si apre a promuovere le diverse forme che può assumere dentro, anche fuori dalla comunità ecclesiale, quella maniera di abitare il mondo che è secondo l'intenzione di Dio e che Gesù appunto ci testimonia con la sua vita, con la sua esistenza. E proprio così allora la Chiesa, nella misura in cui si lascia profondamente, come dire, stimolare e spingere dalle scritture, riconoscendole come il canone, dicevamo, come la regola fondamentale, ecco, la Chiesa potrà continuare o potrà, forse ancora meglio, tornare ad essere anche nella nostra società secolare plurale uno spazio aperto, uno spazio dove si viene raggiunti, si viene conquistati da quella verità che rende liberi. Che non dobbiamo dimenticare che Gesù promette una verità che non incatena, che non schiavizza, ma che rende liberi. Allora concludo davvero citando alcune osservazioni molto efficaci di un grande biblista, che è Bruno Maggioni, tratte da un suo libro che si intitola Attraverso la Bibbia, un cammino di iniziazione. È un libro del 2003, ma che continua ad avere tutta la sua, come dire, la sua forza di interpellazione. E in questo suo testo Maggioni a un certo punto scrive così: si parla spesso del primato della parola, ma molte volte solo retoricamente. Non tutti sembrano aver fiducia nella parola, quella fiducia di cui parlavo prima. Si dice molto spesso che gli uomini sono stanchi di parole, ma non è così. Sono stanchi di parole vuote, ma non di parole vere, non della parola di Dio. La parola di Dio conosce l'uomo, le sue profonde aspirazioni, le sue esperienze. È come uno specchio in cui possiamo guardarci e riconoscerci. La parola di Dio è l'unica che sia davvero in grado di parlarci di Dio. È lo specchio di Dio, non solo dell'uomo. Per questo è una parola sempre nuova, che non stanca mai, perché il suo orizzonte non è mai esaurito. Parola che affascina, capace di aiutare a intravedere non soltanto la volontà di Dio, ma anche la bellezza di Dio. E questo è ciò che conta. Grazie. Grazie. Per questo ascolto. Grazie.